19.01 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Comincia una nuova puntata di Parole Ribelli. Ciao a tutti e tutte, da Eddie e da Francesca, che anche in questo martedì vi terranno compagnia fino alle 12.45. Vi ricordiamo, come di consueto, i contatti per scrivere o telefonare in corso di trasmissione. Per gli sms potete scrivere al 346 667 3263, per il telefono fisso il numero da chiamare è 011 249 5669. Bene, un po' di musica e andiamo a presentare la puntata. Andiamo allora a presentare gli argomenti che affronteremo nella puntata di quest'oggi. Inizieremo con darvi un aggiornamento sulla campagna contro i tirocini che alcuni studenti dell'Università di Firenze stanno portando avanti. Poi andremo a presentare i due appuntamenti di giovedì in città, un presidio in risposta all'attacco, diciamo, al guanto di sfida lanciato dal decreto per l'emergenza casa, la proposta di decreto per l'emergenza casa da Renzi e Lupi, e poi un'assemblea cittadina in merito alle sorti della Cavallerizza. E come sappiamo, la Cavallerizza è un complesso, diciamo, architettonico incredibile nel cuore di Torino. Bene, come su tanti dei beni che questa città offre, è in atto una svendita. Giovedì ci sarà un'assemblea, cioè una realtà che si sta occupando, diciamo, di questa particolare vertenza. Proveremo a fare un collegamento e a presentare questa assemblea di giovedì. E sempre per quanto riguarda gli appuntamenti, però non sul locale, andremo poi a presentare un meeting che ci sarà questo fine settimana a Palermo, che è stato lanciato appunto come meeting antagonista degli studenti siciliani. Ci faremo un po' raccontare a questi microfoni come nasce questo incontro e di cosa si andrà a discutere. Questo è più o meno tutto. Ovviamente i microfoni saranno aperti per eventuali aggiornamenti sulla situazione degli sfratti e altro. Vi lasciamo ancora un po' di musica, poi iniziamo con la puntata. Singing to me, I feel like 11:11 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Bene, andiamo a mandare la prima intervista. Sì, queste sono una serie di interviste raccolte tra studenti di vari corsi di laurea dell'Università di Firenze. Qualche settimana fa avevamo già fatto un collegamento con gli studenti del collettivo scientifico auto-organizzato che stanno appunto portando avanti questa mobilitazione sulla retribuzione dei tirocini, che sono a tutti gli effetti forme di lavoro non pagato. Appunto, questo collettivo sta portando avanti anche un lavoro di inchiesta parallelamente alla mobilitazione. Hanno raccolto una serie di video interviste, ve le facciamo ascoltare, poi daremo i riferimenti anche del blog per chi volesse approfondire la questione. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Sei uno studente fuori serie? Sì. No. No. Quanti anni hai? 24. 20. 22. 25. Qual è il tuo titolo di studio? Il mio titolo di studio è laurea triennale in biotecnologia. Liceo scientifico, maturità. Maturità al liceo tecnico. Laureato in scienze. Hai effettuato un tirocinio? Sì. Quanti? Uno. Due. Ne ho effettuati diversi in 3 anni, per un totale di 2100 ore. In questo è il secondo. Il periodo di tirocinio quanto è durato? Doveva durare 6 mesi, curricolarmente, poi per una serie di problemi un annetto. In totale 5 mesi. Dipende, c'erano periodi di tirocinio che duravano 15 giorni, altri un mese e mezzo, era variabile. 5 mesi il primo, questo durerà 6 mesi. Dove l'hai svolto? Presso un dipartimento della struttura del cubo, il complesso polivalente dell'Università di Firenze. Negli ospedali fiorentini. Diverse strutture di Careggi e nelle ASL fiorentine. Il primo all'università, un laboratorio di un gruppo di ricerca all'università. Che corso di laurea effettuavi? Biotecnologia. Faccio una professione sanitaria, quindi alla scuola di scienze della salute umana. Scienze femministiche. Chimica. Quanti CFU valevi il tuo tirocinio? 28. 8 per il primo e 7 il secondo. Anche quello dipende dall'anno di corso. Nell'ultimo anno, il terzo, erano 22. 6. Vita, lavori anche stagionalmente? Sì, lavoro d'estate prevalentemente, lavori tipo magazziniere, cameriere, quello che si trova, insomma. Facevo ripetizioni, ma ho tutto smesso. Quindi non hai nessun tipo di contratto, però comunque hai bisogno di arrotondare, diciamo. Sarebbe auspicabile. No. Pensi che ti servirebbe lavorare? Sì. No. Parlaci della tua esperienza. La mia esperienza del tirocinio, intendi? La mia esperienza del tirocinio è stata positiva perché comunque nel bilancio finale ho imparato alcune competenze tecniche che potrebbero servirmi in un secondo momento, nel momento in cui si spera riuscirò a trovare un lavoro, però le modalità con cui l'ho effettuato sono un po' dubbie, sono stato buttato nella mischia, sono stato seguito poco per quello che potevano, anche perché il lavoro che c'era da fare era tanto. Ho eseguito mansioni che non competevano rispetto al lavoro di tesi e di ricerca che dovevo effettuare io, ma che riguardavano il lavoro ordinario del laboratorio in cui sono stato, e quindi diciamo anche solo per questo sarebbe stato giusto a ricevere una retribuzione consona rispetto a quello che era le mansioni svolte. La esperienza del tirocinio durante il primo è stata positiva, in quanto a livello formativo ho trovato dei tutor che mi seguivano molto, che mi spiegavano le cose, ed essendo anche il primo tirocinio comunque c'era bisogno di questo, mi sono trovata molto bene, mentre nel secondo, nonostante diciamo ci fossero persone disponibili a seguirmi, ho trovato maggiori difficoltà in quanto la mia presenza in reparto era fondamentale per svolgere il normale carico di lavoro, e quindi spesso non potevo effettuare le pratiche che avrei dovuto imparare, ma fare ciò che serviva al reparto. Quindi diciamo che hai dovuto tappare i buchi di personale delle aziende, esatto, sanitarie. L'esperienza di tirocinio a infermieristica è fondamentale, perché senza di essa non conosci la realtà del lavoro, non impari niente, non hai le capacità tecniche per fare un prelievo, lavare un sedere a un anziano. È necessario essere nel reparto e imparare tante cose. Il problema è come si svolge questo tirocinio. Molto spesso capita che non hai una guida che ti segue in tutti gli ambiti, tutti gli aspetti del tirocinio, ma soltanto infermieri che ti assegnano una mansione giornaliera e infatti rientri negli ingranaggi del reparto. Tant'è vero che molti caposala riorganizzano l'orario di turno degli infermieri in base alla presenza o meno dei tirocinanti. È chiaro che quando arrivano 4 tirocinanti in un turno in un reparto con 40 pazienti e pochissimi infermieri, cambia tanto il lavoro giornaliero del reparto, perché hanno più mani, hanno più mano d'opera. Quindi lavoravamo come un infermiere normale anche 8 ore al giorno per 42 ore settimanali, questo nei primi mesi di tirocinio del primo anno, senza una retribuzione ovviamente. In generale sono molto utili dal punto di vista pratico, cioè specialmente per chi fa chimica è l'unica vera occasione per prendere manualità. Per tutto il resto è uno stress del lavoro senza il guadagno di soldi. E quante ore lo fai il tirocinio? Quanto io ci stai dentro? Circa 7 ore, arrivo alle 9 e vado via alle 4. Ora, che sono comunque in un ente privato, all'università facevo molte più ore, arrivavo verso le 8 e mezza e andavo via anche alle 7 e 8. Ma sei seguita, ti fanno fare le cose che dovresti fare o altri compiti extra curricolari? No, io faccio il tirocinio perché ho un progetto di tesi e faccio tutto ciò che mi serve per quel progetto, non ho mai dovuto fare niente in più, per dire sfruttamento totale, nel senso sono lì a gratis, basta. Era comunque cose utili per la mia tesi. E ho sempre avuto tutori sia dal punto, sia all'università che ora, che mi hanno seguito, ci sono stati per ogni dubbio, ogni cosa, non ho dovuto cercarli chissà dove. E no, da quel punto di vista è positivo. Pensi che comunque servirebbe un lavoro, comunque una retribuzione anche per il lavoro che fai? Mi servirebbe perché non posso lavorare, dato che comunque sto già facendo un orario di lavoro. Quindi per esempio sono stata chiamata per un colloquio alla Pergola, ma di fatto non avevo la disponibilità d'orario per lavorare alla Pergola, quindi è un mancato guadagno per me. E queste erano appunto le voci di alcuni studenti dell'Università di Firenze. Ovviamente la questione che viene fuori con maggiore forza è quella appunto del problema della retribuzione. Per chi appunto volesse saperne di più su questa campagna, c'è anche un blog con tutti i riferimenti, che si chiama tirocinioanchenoblogs.org. Noi facciamo una breve pausa musicale e poi proseguiamo con la puntata. I'm gonna call out Mr. Woodnote on the sax now. Ne approfittiamo per salutare un nostro attento ascoltatore, Forgi. shore, hear the ocean of music, we move with the flow. And in my hand, I don't wanna let go. A partner in life on this moon old road. We got the wind on our back that blows. We can't trip the park, we just move with the flow. Join the show with the pepper headphones. We need nobody to let ourselves go. Always at my side as we rock a stage show. In the ocean of music, we move with the flow. Hand in my hand, I don't wanna let go. A partner in life on this mean old road. We got the wind on our back that blows. We can't trip the park, we just move with the flow. Deny my human instinct that lies inside. Yeah. Thank you. মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর খর্ব কৃপাণ ভীম রণভূমে দণিবে না আমি চির বিদ্রোহী বীর আমি বিশ্ব ছাড়ায় উঠিয়াছি একা চির উন্নত শীল function. Cause it's a part of my mission to break down the vision. Mental compartments are the logical prisons. I'll be sowing the seeds of community, accommodating every colour, every need. So listen to my message and heed my warning. I'm telling you now, when it waits, it's done in a big picture. .33 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo ancora una volta i contatti per scriverci a cellulare 346 66 73 263, invece al fisso 011 24 95 669. Bene, andiamo avanti con la puntata di Parole Ribelli. Come accennato in apertura, andiamo a presentare l'appuntamento del 20 di giovedì a Palazzo Nuovo, dal titolo Cosa succede in città? Quale futuro per la cavallerizza? E siamo in collegamento con Andrea. Andrea, ci senti? Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Breakout e grazie Eddie. Ciao, allora senti, noi sappiamo che appunto giovedì ci sarà questa assemblea a Palazzo Nuovo. Quale futuro per la cavallerizza? Quali idee sul presente? Ci vuoi parlare un po' di questo appuntamento? Vediamo che delle parole d'ordine come cultura, partecipazione, beni comuni, ma soprattutto abitare la città e ovviamente cavallerizza 14:45. Ci fai un po', ci racconti un po' qual è l'intento di questa assemblea, di che cosa si andrà a parlare, come è articolata la giornata, perché c'è poi anche una serata. Sì, certo, noi innanzitutto Assemblea Cavallerizza 14:45 è un'assemblea, cioè un insieme di cittadini provenienti dagli ambiti più disparati che si sono riuniti perché sono presi a cuore la questione di questo spazio, che è sì uno spazio della città di Torino, ma è un simbolo per noi, è un simbolo di come l'amministrazione pubblica abbia preso in gestione dei beni che erano dello Stato e li abbia lasciati allo sbando, allo sbraglio. Dall'altro lato abbiamo visto che le esperienze del privato, dell'intervento del privato nella gestione della cosa comune non sono state proprio delle più brillanti, e per cui abbiamo cercato di ipotizzare delle forme di gestione e un discorso, un dialogo con la cittadinanza che passa dal basso, che sia trasversale, perché crediamo fermamente che se gli stessi cittadini non iniziano ad occuparsi delle cose pubbliche che sono le loro, nessuno mai se ne prenderà cura. Abbiamo deciso di fare una prima chiamata alla città di Torino per esporre il nostro lavoro finora e i ragionamenti che ci hanno portato a pensare che quello della cavallerizza sia un esempio importante, uno spazio importante da riaprire per la città. E vogliamo anche fare un pochettino di chiarezza in questa prima occasione di giovedì su quelli che sono stati tutti i movimenti che hanno portato alla situazione attuale, ed a soprattutto aprire un dialogo sul bene comune e su cosa voglia dire abitare la città e sfruttare appieno le potenzialità che gli spazi e le risorse che abbiamo già, che sono già nostre, possa voler dire per la città di Torino. Bene, grazie mille, ma ti volevo chiedere anche due news sulla serata che ci sarà in seguito, perché la giornata è articolata. Vediamo che alle 18 ci sarà la proiezione delle interviste fatte agli ex abitanti della cavallerizza, perché ricordiamo che la cavallerizza, diciamo, nell'ultimo periodo ha conosciuto un'identità un po' più culturale in quanto sito dello stabile di Torino, ma storicamente sono sempre state, c'è tutta un'area che sono sempre state case popolari, diciamo, questo patrimonio di saperi un po' che si è accumulato dentro a questo spazio, che essendo crocevia un po' di esperienze per le varie nature che sempre che che si è prestato ad assumere, verranno esposti questi materiali. Poi alle 19 ci sarà l'assemblea in merito al futuro appunto della Cavallerizza e aggiornamenti sullo stato dell'arte riguardo al complesso, e poi a seguire una serata di autofinanziamento per questa neonata realtà. Sì, perché abbiamo pensato che sia importantissimo preservare la memoria di questo luogo attraverso le esperienze di chi l'ha vissuto per tutto un secolo, perché fino a questo momento tutto il lavoro archeologico di preservare la memoria della Cavallerizza si è limitato alla parte storica fino alla fine dell'Ottocento, e invece è importante non perdere le storie, i racconti, le testimonianze di chi l'ha vissuto e ha visto la trasformazione dell'Italia attraverso questo posto. Dopo appunto vorremmo parlare noi, tra di noi, con tutti quelli che vorranno intervenire, e aprire un dialogo, e poi alla fine, visto che comunque sembra che la Cavallerizza ha bisogno di per portare avanti questo lavoro, ha bisogno di quel minimo di appoggio dalla cittadinanza, abbiamo pensato di fare una festa, per cui negli spazi di Palazzo Nuovo, che ci ospita con molto, molto appoggio, qui che ringraziamo già adesso, faremo una piccola serata che prevede un aperitivo vegetariano per dare a tutti la possibilità di usufruirne allo stesso modo, e dopo tanta musica con una grande jam session a cui sono invitati a partecipare tutti quelli che volessero portarsi uno strumento, e a seguire la musica di DJ Pippo 13 fino a che non dovremo chiudere. Bene Andrea, grazie mille e ci vediamo giovedì. Grazie a te, a giovedì, a tutti a giovedì. Ciao. Bene, allora andiamo avanti con la puntata, molto interessante questo appuntamento, perché vediamo appunto che la Cavallerizza viene presa come paradigma rispetto alla gestione, diciamo, delle politiche del territorio. Quindi per esempio adesso l'unica parte su cui si sta facendo qualcosa della Cavallerizza è un'area, degli ex maneggi, che è ora un cantiere per la nuova Aula Magna dell'Università di Torino. Ora ci chiediamo come mai un'università che ha appena speso fior fior di milioni, perché 9 solo dichiarati, per costruire un nuovo campus che è stato inaugurato quest'anno, ancora in mezzo alle ruspe, ancora è in costruzione perché ancora non è tutto, non si può usare tutto, ci chiediamo che cosa mai si farà con questa fantasmagorica Aula Magna, che tra parentesi si trova vicino a Palazzo Nuovo, quindi alla vecchia sede. La domanda che sorge spontanea è anche: e che ne sarà di questo Palazzo Nuovo? Al momento la sua funzione si sta radicalmente marginalizzando. Ricordiamo l'esperienza del terzo piano, di cui abbiamo parlato molto spesso, la biblioteca autogestita, che nel momento dell'occupazione della biblioteca ha di fatto toccato con mano che un quarto della superficie dell'università era completamente abbandonata. Ecco, come mai sorge l'esigenza di investire quei pochissimi soldi che l'università dice di avere, quella miseria che continuano a piangere, in un'Aula Magna che probabilmente appunto sarà aperta un giorno sì e mille no. Quindi la Cavallerizza, come tantissime altre situazioni sul territorio, pone ancora una volta in maniera forte la domanda sul chi decide, chi amministra le risorse, chi ha la possibilità di decidere sulle sorti del territorio. Vi lasciamo un po' di musica, poi proseguiamo con la puntata. Buon ascolto.

noi altri abbiamo altri concetti. Contenti se spacchiamo nei concerti. Scommetti che se campiamo anche tra venti ci vedi con sti cenci, non con colletti. Comprendi, connetti, a rap fai da te visti elementi. Ti offendi se dicono nei hip hop ciò che senti. Ma scendi, emergiti nei quattro elementi. Lascia stare i commenti di quattro dementi. Questa qua è la nostra storia qua. È sta qua. Fatti e di fotta, quando entro con la flotta, il mio sciame ha le lame nella bocca, fiocca, beat e versi fino al limite, è verosimile, paragonano alcun te, con la versione per la massa e la merda che non passa, lotto contro un tempo che sorpassa, sovrasta, la mia struttura, ma è questione di cultura, tornerò per la cattura nella tua casba. Me come lanterne in mezzo a ste caverne, underground sto al centro della terra, Giulio Verne a fasi alterne, torniamo perché è pesa, è la resa dei conti per sti rapper da Kinder sorpresa. Quell'hardcore vieni qua, è lotta di classe come in Gattaca, niente apparentamenti o finti cambiamenti, come riferimenti abbiamo i quattro elementi. Classiche di sfida tipo Alfio e Turidu, non fotti con schema, ma tu super cazza, un altro salto nel vuoto, non c'è rimasto molto ma difendiamo quel poco. Questa qua è la nostra storia qua, è sta qua. Sensazioni che mi spingono, ricordi, io testo il tuo spessore già da come ti comporti. Vediamo cosa porti, voti sconvolti, se non ti scordi, sono solo top in bocca sti balordi. Voti con testi morti, se volti, bisogna che corri, o non ritroverai nemmeno i corpi. Solo l'onda d'urto dei colpi, tu nel cypher zero sconti. Nessuna regola, di stile proprio mezzo in lirica. Rada al suolo ciò che vi stimola, hardcore su groove rimane l'unica. Oggi non c'è solo sensazione critica, aria di svolta, ancora un'altra volta. L'esame non lo passi, resti fuori dalla porta, questione di rispetto, metto fuoco e fiamme nel progetto. Rotten Beats, casa l'architetto, comando fuggi, reietto, merda che proietto, come musica dal nastro suonava dal ghetto. Blaster, ciuccia di questi MC sul master. Questa qua è la nostra storia qua, è sta qua. Allora, ancora un pezzo, mentre prepariamo la prossima diretta, vi lasciamo all'ascolto di questo pezzo. Periferia, senza una casa, senza una strada che potessi dire mia. Ho messo in ogni passo l'energia per lasciare un'impronta che il tempo non potrà spazzare via. La sconfitta è preziosa, per questo la custodisco. Mi ha insegnato più del padre che non ho mai visto, più di Cristo. In mano stringo poco o niente, le unghie nella carne fanno male, mi ricordano che esisto e ho visto stupidi vantarsi di una vita amara. Corro verso l'orizzonte anche se so che si allontana. Uno per lo show, due per la grana, ma tre per rendere orgoglioso chi mi ama, lo capisce. Scrivere la pace non vuol dire averla, vivere ogni giorno combattendo non è stare in guerra, rimanere con i piedi per terra, volando fin quando questo tempo non ci afferra. ormai ho imparato a stare a galla. Se questa barca con la picco non mi trascinerà sul fondo insieme a chi sta fermo e chi guarda passare la sua vita che non ritornerà. L'ho detto ormai con tutte le parole che c'ho, che finché ci avrò fiato in gola continuerò. Per ogni stecca in faccia che mai dato ora so che troppo te ce vuole per mannamme K.O. Hey. Nata ai bordi di periferia come tanti, ma se ci penso bene come troppi, mia madre che si è fatta in quattro per mandarmi avanti e farmi studiare, la fatica ce l'ha scritta dentro agli occhi, è per questo che non sono come voi e che non posso, sprecassi tutto questo sarei stronzo, ma non lo sprecherò perché vale troppo, per ognuno che ha creduto in me, io ci credo il doppio, la lista dei miei debiti è infinita, lo so, non basterà tutta la vita per pagarli però, ogni minuto, ogni secondo che avrò, lo spenderò per rendere giustizia le fortune che c'ho, che c'ho. Sta musica l'ho usata per dirvi quanto vi amo, in tutta la mia debolezza sempre con il cuore in mano. Se adesso posso correre è perché so andare piano, se adesso voglio correre è per andare lontano. Ormai ho imparato a stare a galla, se questa barca con la picco non mi trascinerà sul fondo insieme a chi sta fermo e chi guarda passare la sua vita che non ritornerà. L'ho detto ormai con tutte le parole che c'ho, che finché ci avrò fiato in gola continuerò. Per ogni stecca in faccia che mai dato ora so che troppo te ce vuole per mannamme K.O. K.O. e 56, proseguiamo allora con gli approfondimenti per questo martedì 18 marzo. Abbiamo ai nostri microfoni Gabriella, studentessa del collettivo universitario autonomo di Palermo, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao. Ecco, un saluto a te, con te vorremmo andare un po' a discutere di questo meeting che avete lanciato per questo fine settimana, che avete presentato appunto come meeting antagonista degli studenti siciliani, che si pone un po' l'obiettivo di appunto organizzare un momento di confronto in vista dei vari appuntamenti e scadenze di lotta della primavera che le ultime assemblee nazionali hanno lanciato. Chiaramente il discorso è ampio e riprende appunto le parole d'ordine che già hanno portato in piazza il 19 ottobre, con cui si tornerà in piazza il 12 aprile, ma con l'obiettivo di provare anche un po' a organizzare il mondo giovanile, più in particolare quello della formazione, anche a fronte appunto degli ultimi rivolgimenti del governo, con un governo Renzi che sta tentando appunto un po' di vendersi con questo volto giovane, soprattutto di parlare ai giovani, tant'è che uno dei primi provvedimenti è stato appunto questo famoso Job Act. Quindi niente, ti lascerei la parola per presentare un po' come nasce questo appuntamento, quali sono i discorsi che cercherete di sviscerare. Sì, assolutamente. Riparto un po' anche da quello che hai già introdotto, nel senso che sicuramente questo appuntamento era necessario e si è posto proprio come esigente in questo momento verso quella che sarà la piazza del 12 aprile e che, come dicevi già tu, insomma, è il percorso di lotta che abbiamo iniziato quest'anno a partire dalla piazza del 19 ottobre di Porta Pia. Abbiamo sentito l'esigenza appunto di costruire questo meeting regionale, in particolare tra le città di Palermo, Catania e Messina, proprio perché al momento crediamo che la scommessa sia non soltanto puntare a quella piazza del 12 aprile con la composizione metista, insomma, che sarà quella del 19 ottobre, ma provare a spingere anche da quello che è il mondo della formazione, insomma, di studenti medi, universitari, particolarmente in questo caso. È un meeting che sicuramente sarà importante, soprattutto perché per noi è anche un momento di insomma, sedimentazione e rilancio di un percorso che a livello regionale abbiamo già, insomma, condiviso durante il corso di quest'anno, particolarmente con l'esperienza degli studenti NOMUOS, insomma, che è stata un po' la palestra di questo coordinamento regionale che si è dato quest'anno, che ci ha visto appunto essere protagonisti e soprattutto ha stato un po' la missa a livello regionale in quelli che sono stati gli appuntamenti, insomma, appunto sulla questione del MUOS, ultimo quello del primo marzo. Quindi ripartendo un po' da quella forza espressa, da quel livello conflittuale, da quel protagonismo della soggettività studentesca sul livello territoriale, proviamo un po' a raccogliere quella che è stata questa esperienza e rilanciare appunto in vista del 12 aprile, che sicuramente è una scommessa forte, esigente in questo momento, che si pone proprio come necessaria, soprattutto per quello che dicevi anche tu quando introducevi, nel senso che sicuramente anche questa questione del governo Renzi che si sembra essere semplicemente l'ennesimo insomma teatro da burattini mosso dall'alto e che sicuramente non si lascia ingannare dal volto giovane e dalle parole appunto dal Twitter della situazione insomma che sicuramente non sarà il Giobetta a prendersi ancora in giro una volta, nel senso che è evidente che qua, parlo della Sicilia che è il territorio che vivo, sicuramente non saranno gli 80 euro al mese negli stipendi delle nostre famiglie a risollevare la situazione, soprattutto non soltanto per una critica forte che va mossa al momento alla gestione delle risorse, ma soprattutto perché sul piano della formazione, ad esempio in questo momento è stata varata da pochissimo la nuova finanziaria dal governo Crocetta, in cui ancora una volta viene praticamente ridotto ormai al midollo quello che è il fondo per l'ente regionale per il diritto allo studio dell'ERSU, che ormai veramente stiamo arrivando a livelli allucinanti, nel senso non soltanto non vengono più erogate le borse di studio per gli studenti, ma anche il numero degli idonei ormai non è più nemmeno accettabile, quindi ci chiediamo come si pensi che uno studente universitario, uno studente delle scuole palermitano l'anno prossimo possa iscriversi all'università, che ormai sta diventando veramente un'università delitta, abbiamo già visto il calo delle iscrizioni quest'anno, l'anno prossimo non lo si può immaginare. Mi concentro un po' più su questo perché, ripeto, essendo un meeting studentesco e particolarmente universitario, sicuramente uno dei temi che devo affrontare è proprio quello della gestione delle risorse, di chi e cosa decide, che poi sarà anche il movente insomma che si porterà alla piazza del 12 aprile, che ripeto è una scommessa ed è importante scommettersi adesso e sfruttarla come un'occasione per rilanciare il conflitto che già è partito da Porta Pia il 19 ottobre, ma che sicuramente insomma adesso deve vedersi fare un passo in avanti, soprattutto per questo nuovo volto del governo Renzi, e smascherarlo insomma ancora una volta, perché è evidente che è un teatro a burattini mosso dall'altro, che sicuramente andrà ad attaccare ancora di più le fasce più deboli, tra cui gli studenti. Sicuramente in questo meeting raccoglieremo per lo più, ripeto, queste esperienze di studenti no MUS, le esperienze territoriali che si sono date in Sicilia, che si danno in Sicilia, a parte la nostra, insomma qui a Palermo c'è il collettivo di Catania, insomma che ultimamente ha occupato parecchi spazi, nonostante l'amministrazione cittadina insomma provi un po' a reprimere questa esperienza, soprattutto la casa dello studente di Messina, che in questo momento è quella che sta dando ampio respiro a quella che è una cittadina che in effetti insomma si vede un po' svuotata la soggettività universitaria proprio per sponte, insomma anche con la Calabria, quindi non ci sono assolutamente servizi, nonostante ci sia questa amministrazione dei beni comuni di Accorinti, che però evidentemente ancora non è pronta a esperienze di questo tipo. Quella crediamo che sia un'esperienza interessante e sicuramente dobbiamo investirci, ripeto, sempre in vista del 12 aprile. Sì, come dicevi appunto, poi ogni territorio ha delle sue specificità, sicuramente per quanto riguarda il contesto siciliano l'esperienza Numuos è stato un collante forte, però appunto ci sono alcune linee di tendenza più generali sul mondo della formazione, che erano quelle che ricordavi, per cui tutti gli effetti delle varie riforme che si sono susseguite, che all'oggi sono di fatto operative. Secondo te, a fronte anche dell'esaurimento degli ultimi cicli di lotte e a fronte di un mondo della formazione non particolarmente effervescente negli ultimi anni, credo che appunto un po' l'obiettivo anche di questo meeting sia provare a immaginare quali sono le linee di frattura in cui ci si può provare ad inserire, appunto per provare a far ripartire invece dei cicli di mobilitazione. Assolutamente, per quello che dici tu, è evidente che il mondo della formazione post riforma Gelmini, insomma, non è stato molto semplice provare a rilanciare le lotte e a vedere appunto quelle effervescenze di cui parlavi, e questo per tanti motivi che spesso abbiamo analizzato, uno fra tanti lo svuotamento insomma delle facoltà, di quello che è il corpo studentesco, e questo per tanti motivi. Ricordavo anche poco fa il calo delle iscrizioni a Palermo, poi ovviamente da città in città cambia, ma qui ad esempio l'Ateneo Palermitano ha visto un calo veramente, come dicevo poco fa, al midollo delle iscrizioni, per cui proviamo, ripeto, secondo me la parola chiave emblematica è proprio la scommessa, proviamo a rilanciare tutta la formazione a partire da appunto questo ennesimo attacco che verrà adesso dall'amministrazione regionale e puntarlo verso quello che è la progettualità politica, insomma, che si fida verso il 12 aprile. Va bene, Gabriella, se vuoi presentare brevemente anche quella che sarà l'organizzazione di questi due giorni, noi poi ti salutiamo, insomma, rilanciamo anche da questi microfoni l'appuntamento. Sì, assolutamente. Sarà sabato e domenica, 22-23 marzo, ci sarà una prima giornata di relazioni, insomma, seminariali nel pomeriggio, in cui appunto si confronterà sia sul tema dell'amministrazione messinese, sulla questione dei beni comuni e quindi comunque degli attacchi che vengono fatti nonostante i volti della buona politica, diciamo. Poi ci sarà appunto la relazione palermitana sulla questione del 12 aprile, quella catanese, insomma, che andrà un po' più a specificare le loro contraddizioni territoriali. Poi ci sarà, insomma, un momento di socialità la sera e il giorno dopo un'assemblea studentesca proprio per rilanciare sul piano pragmatico sulle iniziative di Lost da qua al 12 aprile. Il tutto si svolgerà all'HPO, che è il nostro hotel padre occupato, lo studentato che abbiamo occupato lo scorso 19 aprile. Beh, va bene, grazie mille Gabriella. Grazie Francesca. Un saluto, a un presto. Saluto. Ci sentiamo a presto, ciao. Beh, molto interessante questo appuntamento perché, diciamo, tra il fatto che si svolge all'HPO, che è uno studentato occupato, quindi di fatto una forma di riappropriazione di quello che sono le possibilità, cioè il reddito studentesco, la possibilità di accedere alla formazione e la congiunzione comunque nell'incontro tra varie realtà territoriali, è sicuramente molto importante in vista anche delle scadenze che la lotta, diciamo, che ci siamo dati collettivamente nella lotta. Quindi abbiamo visto quella che doveva essere una manifestazione per come controvertice sulla disoccupazione giovanile sganciarsi da un'agenda imposta e autoconvocarsi il 12 aprile, nonostante lo slittamento del vertice a forse l'estate, ma sicuramente quello della, diciamo, della condizione giovanile dentro e fuori l'università, ma soprattutto negli incroci tra la soggettività comunque studentesca e quella lavoratrice. Abbiamo visto che la maggior parte degli studenti oggi, per poter continuare a studiare, è in una condizione di lavoro precario, se non apertamente sfruttato. E quindi, diciamo, creare momenti come quello che ci ha presentato Gabriella prima è sicuramente fondamentale per arrivare a poter costruire un discorso che sia comunque anche un'indicazione politica su cosa intendiamo per formazione, in vista anche in vista appunto degli appuntamenti che ci aspettano. Bene, andiamo avanti con la puntata e un po' di musica ancora. È 12.07 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Cisti, viaggiare informati, tre cellulari su Corso Vittorio in direzione Piazza Rivoli. Di nuovo Cisti, autovelox via Zino dietro il Paso. Un suono che sfonda, un trono nell'ombra, un luogo tormentato dalla barafonda, una mezza baratomba per la notte fonda, quanta mare in cui non conta, quanto ammonta la mia vaga, il mio segreto merce rara, custodito dalla gente che remana le sue schegge per la strada, la legge di chi spara se il nemico sgara, qua non regge, Roma è già abbastanza mare, non si regge, no? È la mattanza delle bestie con le teste in linea, è la fattanza nelle teste sotto effetto rima, è una matita tra le dita per la vita ed ogni riga è sopra un giorno di dolore come liga, e non si placa mica, nessuno caga e riga, solo la linea della vita obliqua verso la salita, l'hai già sentita, forse è musica bellissima, seguita da una nicchia piccolissima, è la mia gente, è quella che ci segue, è quella che supporta sempre Broca e Spigaz che ci crede, loro hanno fede, per questo io ci credo, e se c'ho sede, grazie alla loro forza mi dissesse, giorni persi e freddi, giorni intensi dove il caldo non lo reggi, questa notte perdi sensi, gli amici

paura, cammini di notte sul bordo di una strada, bella come una grande città quando la gente è addormentata, agitata come la bandiera scolorita, e chi in qualche modo ce la farà. Immenso smarrimento, immensa libertà, immensa libertà. Bandiera rossa che riunirà, ma sono sulla costa del mare in tempesta. Qualcuno gridava la luna al popolo, poi la sera fa il rumore di una sera cinesca che si abbassa. E Mozza ha letto con la febbre alta. Sulle libere frequenze di Radio Blackout, come dicevamo, siamo in diretta con Michele. Michele, ci senti? Sì, sì, vi sento forte e chiaro. Ciao a tutti e a tutte. Bene, Michele, tu hai seguito la campagna Che Viva Murazzi, che è nata, diciamo, nel momento in cui questo folle progetto di riqualificazione, come tanti ne abbiamo visti in città, ha deciso di abbattersi sul lungo Po Torinese. Ci spieghi un po' intanto le ragioni, il tappe di questa campagna, e poi se ci illustri un po' l'appuntamento di domenica, e anche appunto dandocene il senso, vedremo come mai questa così larga adesione, perché l'appuntamento, certo, è veramente ricco. Sì, allora, praticamente la campagna Che Viva Murazzi è nata lo scorso anno appunto sull'onda dei blitz della magistratura, che hanno praticamente chiuso tutti i locali del Lungo Po, compreso anche appunto il CSA Murazzi, e che poi ha avuto appunto la forza per riaprire e proseguire appunto le sue attività. Diciamo che la riqualificazione dei Murazzi è un tema molto sentito, che porta con sé ovviamente un bagaglio di ricordi, denunce, proposte e tutta una serie di altre cose, e sicuramente i Murazzi sono uno dei luoghi simbolo della città di Torino. Come CSA Murazzi appunto abbiamo intrapreso questa campagna l'anno scorso, che ovviamente non è legata solamente al mantenimento, alla difesa del centro sociale Murazzi presente in Riva al Po dal 1979, ma anche una più larga veduta, perché consideriamo i Murazzi patrimonio della città di Torino, che non può e non deve essere lasciato e abbandonato a se stesso. E diciamo che queste sono appunto le ragioni principali che ci hanno portato a creare, organizzare questa giornata di domenica 23, dove ci saranno molte iniziative e anche molte realtà che si sono appunto unite per far sentire la propria voce. Oltre appunto a CSA Murazzi con la sua campagna Che va Murazzi, ci saranno anche una serie di realtà come può essere l'Arci, come può essere anche la campagna Salvare i Murazzi, che è molto genuina, magari ha dentro di sé interessi riguardanti i locali, mentre noi siamo più diciamo sull'ambito sociale e di aggregazione, che sono il simbolo, che sono appunto i Murazzi. E niente, ci saranno queste serie di iniziative che partiranno già dalla mattina alle ore 10 lungo tutto il Pomurazzi. Ci saranno una serie di live painting, workshop, sport, arredo urbano, expo, installazioni artistiche, addirittura colazione, workshop di fotografia, spettacoli teatrali, performance, circensi, danza, insomma, molte iniziative per tutte le età. E poi ovviamente già arriviamo al clou della giornata, che è appunto questo corteo che partirà dalle 15 con tutta la serie di crew e nomi di artisti che hanno vissuto appunto hanno vissuto i Murazzi. E poi ovviamente arriviamo alla conclusione, diciamo, il gran concertone in Piazza Vittorio, dove ci saranno tutti i nomi che sicuramente già sapete, come Zulu, Enzi, Linea 77, Max e Samuel Subsonica, Ethne Reaper, gli Africa Unite, eccetera, eccetera, comprese appunto anche gli Yegin, a cui siamo molto affezionati. E poi, diciamo, ciliegina sulla torta, da mezzanotte ci sarà il CSA Murazzi DJ set con Busta, dei Subsonica ed Enzi, e riapriremo dunque la stagione giù ai Murazzi. È la programmazione della giornata. Beh, una giornata molto composita, che immagino, diciamo, sia articolata così su così tante ore, per diciamo più ovviamente non solo offrire una giornata di musica che abbia, diciamo, una connotazione molto forte, perché tutti i musicisti che hanno aderito sono passati e hanno vissuto in qualche modo i Murazzi, quindi non è una semplice dichiarazione di solidarietà, ma un gesto molto forte per dire che si vuole continuare a portare ognuno i propri contenuti, appunto in questo caso la propria arte, la propria musica, in quello spazio. Ma e quindi diciamo scusa, la giornata sarà un po' anche un esempio di che cosa i Murazzi potrebbero invece essere, e non, diciamo, l'ennesimo piano di riqualificazione dall'alto, che poi si tratta, molto spesso si risolve nella bonifica di tutto, deroghe, eccetera eccetera, e si ritorna, diciamo, alla situazione di prima. Esatto, abbiamo visto già tantissime di queste operazioni sul territorio, che si risolvono appunto in speculazioni e ingrassamento delle tasche dei soliti noti, e non danno poi di fatto a chi il territorio lo vive un ritorno di nessun genere, perché non sarà certo trasformando i Murazzi in atelier e riempiendoli di precari a partite IVA che daremo un qualcosa in più a questa città. Sì, esattamente, perché comunque tutto ciò è nato ed è partito da una petizione che appunto sta girando in rete, che ha più di 4.000 supporters in questi giorni, e niente, che appunto si chiede a chi di dovere, tipo il sindaco, l'assessore Gian Guido Passoni, l'assessore Ilda Curti, soprattutto al sindaco, appunto che i Murazzi non vengono lasciati abbandonati a se stessi, ma che anzi si danno un luogo accessibile a tutte le fasce d'età e soprattutto in tutti gli orari del giorno, che non siano, tra virgolette, considerati solamente il luogo dello sballo della notte. Ecco, infatti, proprio per questo ci saranno anche iniziative al mattino, culturali e anche per bambini, ecco. Anche perché diciamo che questo giro di appunto movida, locali, socialità mediata da consumo dal consumo sostanzialmente, certo. A qualcuno faceva comodo, diciamo, non è nata per caso, perché si nasce con l'idea che il sabato sera ci si sballa per forza, ma evidentemente qualcuno ci ha mangiato su, sì, diciamo, i classici magari locali, i ciupitari, no? Diciamo, li consideravamo così, che diciamo hanno sfruttato l'eco dei Murazzi per poi arricchirsi. In realtà i Murazzi sono uno di quei punti d'aggregazione dove anche chi magari non può permettersi una serata magari nelle discoteche della nostra città, i Murazzi con pochi spiccioli comunque potevi permetterti una bella serata. Ecco, questo è molto importante del discorso che anche noi come CSA Murazzi, con la campagna Che Via Murazzi, abbiamo cercato di portare avanti. Sì. Che comunque il CSA è uno di quei posti dove, anche se non hai spicci in tasca, appunto per permetterti una bella serata, comunque la maggior parte delle serate saranno, diciamo, gratis e aperte a tutti. E con questo vorrei lanciare anche le domeniche del CSA Murazzi. Magari su Facebook troverete la pagina con tutte le informazioni. Noi cerchiamo appunto di che i Murazzi siano un luogo culturale aperto appunto a tutte le fasce d'età e a tutte le persone. Sì, ricordiamo, sono i riferimenti appunto alla pagina Torino, i Murazzi sono la mia città, rispetto alla campagna, e quella Che Viva Murazzi per le iniziative del CSA. Esattamente. Spero di vedervi tutti, diciamo, domenica 23. Va bene, Michele, ti ringraziamo, rilanciamo anche noi l'appuntamento. Grazie, okay, grazie, mille, grazie a tutti e a tutte. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nel frattempo arriva un sms qui al 346-667-3263 da un ascoltatore, Franco, che ci scrive: speculazione come è stata con l'ex Lega dei Furiosi, che è stata chiamata Student Zone, ma è stata una vera speculazione. Non per niente chi gestisce questo posto è la stessa proprietà dello chalet del Valentino. Che cazzo c'entra? Se non è speculazione è questa. Sì, in effetti ne avevamo anche parlato all'epoca, appunto, della chiusura dell'ex Lega dei Furiosi, uno dei luoghi storici appunto dei Murazzi, di cui è stata fatta un'aula studio. Scelta appunto decisamente discutibile, insomma, tra tutte le destinazioni che si potevano dare a quello spazio. Appunto, anche qui vediamo un po' il solito zampino, quindi niente, cogliamo anche questo spunto che ci viene dato da questo ascoltatore. Sì, siamo assolutamente d'accordo, anzi rispetto a questa student zone non solo rispetto a che cosa poi ha dovuto succedere alla Lega dei Furiosi per aprirla, ma dentro per esempio c'è un bar in questa zona per studenti, che non si sa a quali studenti può essere accessibile, perché i cui prezzi sono veramente un qualcosa di abbastanza imbarazzante. Quindi lo scenario è tristemente questo. Cerca gruppo post-punk, a risponde almeno un gruppo post-punk. Si presentò puntuale alla fermata della metro A. Mi portò un disco dei Go-Go-Go Hat. Era timido e cupo, aveva il doppio della mia età. È un lavoro di merda, ma scriveva sul c***o. Voleva mettere su un'etichetta, poteva darmi contatti. Le prime lettere, i messaggi, vedi Nicolò, la gente non ha il mestiere che fa. o i vestiti che porta, le scarpe che mette, la roba che ha. E per questo non mi riconosco in questa società. Per me contano i dischi, i bagni nel mare, l'umanità. Si definiva narcoide, si vestiva come un impiegato. Frequentava soltanto ragazzini liceali. E ogni tanto provava a parlare di sesso. E capivo dove voleva arrivare, cambiavo argomento. Così imbarazzato, da dirmi che la sua famiglia aveva un casale a Orvieto, che era benestante, più che benestante, se avesse voluto avrebbe potuto smettere di lavorare in qualsiasi istante. Vedi Niccolò, la gente non è il mestiere che fa, o i vestiti che porta, le scarpe che mette, la roba che ha. Ad esempio, mio padre insegnava all'università. Quando è morto non sai i telegrammi, le quantità. Vedi Niccolò, la gente non è il mestiere che fa, o i vestiti che porta, le scarpe che mette, la roba che ha. Ad esempio, mio padre insegnava all'università. Quando è morto non sai i telegrammi, la quantità. Di appuntamenti per la settimana, ricordiamo stasera all'asilo occupato la cena benefit per la radio, come al solito la radio cucina benissimo, quindi come non andare. Giovedì invece al centro sociale Gabrio di Via Miglio, presentazione del libro Le orme del lupo di Giaga, incontro con l'autore, a seguire il blues di Toto Zingaro. Quindi dalle ore 20 a pericena, alle 21 la presentazione del libro con parole e musica, appunto poi la serata proseguirà, appuntamento in Via Miglio 42. sempre giovedì sera, ricordiamo la serata a Palazzo Nuovo per Benefit Assemblea Cavallerizza 14:45 e il concerto Jazz Noise Benefit Blackout nella Blackout House in via Cecchi 21A. Dalle ore 23 suoneranno Giuclo Duo, Free Jazz Tribale e Gelba Experimental Noise. Allora, anche per questa settimana Parole Ribelli vi saluta, vi dà appuntamento come di consueto a martedì prossimo dalle 10:45 alle 12:45. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Blackout, tra pochissimi minuti in onda il GR e a seguire Cattivi Pensieri. Ciao a tutti e tutte da Eddie e un saluto anche da Francesca, buon ascolto, a martedì prossimo.